Anche oggi mi soffermo sulla prima lettura perché in questo tempo pasquale dobbiamo essere attenti a guardare per imitare l'atteggiamento della Chiesa dei primi tempi quando ha dovuto imparare a vivere e a crescere senza la presenza fisica di Gesù. In questo capitolo tredicesimo degli Atti, capitolo 44, versetti 44-52, abbiamo due episodi veramente dolorosi che ci mettono dentro il cuore tanta tristezza e poi anche un insegnamento, ma la tristezza perché vediamo della gente che si ingelosisce del successo degli apostoli. Furono ricolmi di gelosia e attaccano Paolo. Allora Paolo dice, vabbè, ce ne andiamo, visto che voi ci respingete. Andiamo via da voi, andiamo dai pagani. Quelli saranno più attenti. Vanno dai pagani, ma anche lì incontrano opposizione ancora dagli ebrei, i quali sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dal loro territorio. Tu dici, ma come? Questi annunciano Gesù, la misericordia di Dio, la salvezza di Dio e sono scacciati. Io ho riflettuto un po' su questo e ho trovato che credo che questo peccato di gelosia, io lo unisco anche all'invidia, e vanno sempre a braccetto, anche se sono diversi. La gelosia è quando uno ha paura che gli sia rubato un bene che lui ha. Io mi ingelosisco di quella persona perché ho paura che mi rubi il mio amore. È mio, è mio. L'invidia, invece, quando io vorrei avere il bene che l'altra persona ha e io non ce l'ho, e allora denigro magari quella persona. Vedete, sono come compatibili l'un con l'altro perché il centro sono sempre io. E credo che questo sia il peccato originale e originante che le origina tutti, perché credo che questo sia il peccato di Satana, il quale ha rifiutato Dio, poi era geloso che Adamo ed Eva invece fossero amici di Dio e allora li fa cadere. La stessa cosa avviene con Caino e Abele. Uno geloso dell'altro e lo ammazza. Se percorriamo la Bibbia troviamo diversi altri casi, per esempio Saul e Davide. Saul era il re, ma si ingelosisce di questo astro nascente che è Davide che gli soffierà il posto. E gli apostoli? Signore, al di là del fiume c'è qualcuno che fa miracoli nel nome tuo, ma non è dei nostri, impediscilo. E Gesù dice, ma siete forse gelosi? Purché Dio venga predicato. E oggi, amici, nel nostro mondo non è così? Nelle nostre famiglie non c'è la gelosia e l'invidia che la fa da padrona? Le donne in questo sono maestre, anche noi uomini, ma le donne sono maestre, la gelosia e l'invidia, reciprocamente, ma anche tra fratelli dello stesso sangue. Il mondo è basato su questo, nel vicinato, nel parentado e in parrocchia. Basta che arriva una persona nuova per dire, non so, per esempio, volete una mano a pulire la chiesa? No, siamo già a posto. Oppure basta che una persona dotata si presenti, legga bene, canti bene, dia una mano? A lei, presso il sacerdote, c'è sempre qualcheduno che la denigra. Oh amici, che tristezza, che tristezza. Perché sempre siamo a guardare noi stessi. O guardare gli altri per criticarli. L'unico modo per vincere questo peccato è guardare al crocifisso. Ma se noi non guardiamo il crocifisso, o guardiamo agli altri, o guardiamo a noi stessi. O cadiamo nell'invidia, o cadiamo nella gelosia. Siamo sempre lì, sempre lì. Quando è che capiremo che siamo liberati da questo? Gli Atti dicono: i discepoli se ne vanno pieni di gioia e di Spirito Santo. Quando dentro di noi, anche nel confronto con gli altri, veniamo fuori da questo confronto in pace, in gioia, in serenità, ringraziando Dio, è andata bene. Quando ne usciamo tristi, rancorosi, il rancore, l'amarezza, sono tutti bellissimi regali del diavolo.